ma sono qui da sola senza te. Molta gente intorno e molto fumo, ma nello specchio non c'è più nessuno. Dove sei? Per quale strada vai? Dove sei? Chissà che troverai. Fuori c'è bel tempo e odor di maggio, è un altro posto per un altro viaggio. Lascerò soltanto le parole su questi tetti ad asciugare al sole. Tu dove sei? Chissà che aspetti mai. Dove sei? Chissà se capirai. So di terre, fiumi e sponde a mare, e so di foglie pronte per cadere. Dove sei? Chissà che troverai. Dove sei? Forse ti ricorderai. Sento le tue mani su di me, ma sono qui da sola senza te. Molta gente intorno e molto fumo, ma nello specchio non c'è più nessuno. Dove sei? Per quale strada vai? Dove sei? Chissà se capirai.